sembra che aveva dimagrito un bel. Io adesso da tanto non ci vado a foto. Abitava in casa Petrarca. Ma c'è la del golfo dietro, quella è la casa del fratello di mamma, dell'avvocato Falchi, Gian Mario Falchi. Sì, in casa Petrarca dove c'è quel cancelletto, abitava. Sì, dove abitava di Gian Mario Falchi, l'avvocato Falchi, mai conosciuto? No. E comunque ce l'aveva dimagrito un bel. Beh, sicuramente, che cosa va via. Ha pagato, ma se è viva vuol dire che sta bene. Io spero sia ancora viva, perché non è che era molto più grande di Domenico, un'ottantina ce li ha adesso già. E di più? Allora quanto è mamma forse, 86, 85. Quale età c'ha? Degalmina. Io dicevamo tutti zia Grazietta, zia Gavia. Tutti li hai conosciuti tu, se lavoravi lì per portarvi la spesa, tutto. Bei tempi, Antò, bei tempi. Tu il digiano tu magari esci tu non mi era un microfono, magari era già. Ah, non lo so, Gio, boh. Io sono di uno che si è dormito e si è copiato un lineare e ha fatto tutta la casa vita. Glielo sappiamo. Aspettate che cambio radio già, che c'ho il 430, rimetto il 140, sto facendo le prove. Via. E prima si facevano caccia a tesoro, si facevano le gite qua a Sassari, da Radio Club Nord Sardegna facevamo le gite, caccia a tesoro, maniani di bici, di veni, ui, giocate a casa. E un po' mistero, bisognava selezionare persone. Ah, pinguino, ah, già me lo ricordo, che il suocero era Aquila di Gnogno. Ah, c'è stata mia figlia. Ma chi, con pinguino o con Aquila di Gnogno? E Alessandro, chissà se è vivo, e ciucciava un bel ciucciava super alcolici. Chi già? Aquila di Gnogno. Sono morti tutti, è rimasto solo Gavino e Gesuino, è morto Giovanni, è morto Aquila di Giorno, come ti chiamava, tutti sono morti, è rimasto solo Gesuino e Gavino. Alessandro si chiamava, Olio F, con la lezza ha detto che la macchina così andava Olio F. Io Alessandro Aquila di Giorno, io K. Sì, è morto. Io guarda, avevo visto una volta che stava caricando dei fiori con la moto carrozzella da, come si chiama, le serre che ci sono dentro il cimitero lì. Stava caricando dei fiori, detto che stava facendo trasporti con la moto carrozzella. Io me lo ricordo, ma tra poco lì di Gosci. Quando ha venduto la licenza poi si è messo a fare altro. Avanti, Giacomo. Sì, ciao, buonasera a tutti, ciao Claudio. Claudio, questo esattamente, un controllo di radio, mi dici come sta andando, se è troppo basso, se è più basso? Il segnale è 9.10, sì, basso il segnale, forse sto usando poca potenza. La radio già è buona, prova già. Ehi, già va bene, ciao Giacomo. Sì, ciao Gianni, buon ascoltato a tutti. Provo un attimino a aumentare perché volevo vedere se è mai scavo, Così va sempre bene o ci sono disturbi? No, così non esca. Non ho detto. Va bene, grazie Claudio, grazie Gianni, grazie a tutti, ciao e alla prossima. Ciao Gianfra. Buona lotta. Avanti con la Teresa. Ma chi? Modigliani ce l'aveva, però aveva la casetta, no? La roulotte. Lì ce l'aveva la casetta Modigliani. Torre Tradicera, Torre la Verde. Ah, a Torre là. D'accordo. Il Ravino ha fatto Burretto, per carità, guarda. Non lo so, Torre quando è morto aveva poco più di 70 anni. 73, tu, ma Torre è morto, ma vai, io 7 anni fa. Sì, ci aveva avuto 81-82 anni. sono a Druco. Aspetta. A dove stai dicendo? Le shop. E quelli che hanno messo già voglio ricordo. Quelle valantene e questa roba qua. No. HB23. A chi? L'ho sentito nominare ma non me lo ricordo. Ma cos'è? Un base? Vabbè, non l'ho visto. Sì, sì, ho capito. Ho capito cosa mi stai dicendo. E dove c'è un bel apparecchio? Un giorno mi mando la fotografia. Vabbè, non c'è manco il numero, come fa a mandarmi la fotografia? Ma buonasera a tutti, buonasera Antonio da questa parte. Ciao tu. Ma con chi sono in compagnia? Mi pare che ci sei tu, Claudio, e poi chi c'è l'altro amico? Antonio mi pare, chi c'è? Falconero da Sorso. Ma salutoni Falconero, salutoni. Vabbè, fatto te l'hai da fare. Piano piano, la calma, lo sta facendo piano piano. Vabbè. Pensavo che te l'avesse tornato. Poi ci vuole pazienza per fare queste cose. Ho già. Ho pure un cosa a 6 punti. Sì, ma Luca già ne fa panichi di queste cose. Raga, ma piano piano, senza fretta. Molto tranquillamente. Falcone, quanto ti arriva il sorso di segnale? Sì. Guarda, 1, 2, 3, prova. Non si dice niente, guarda adesso come arrivo. Quanto ti arrivo adesso? Ma io come ti arrivo? Io sono in zona negativa per sorso. Detto già. Segnale che hai tu prima, 5 c***o. Ma già. Ehi. Prova a attaccare e parlare. Ehi, guarda, 1, 2, 3, prova. E io ho toccato la cosa, i watt. Quanto mi stai dando d'ingresso? No, adesso 5 watt. Ecco, non cambia il segnale, però cambia la radio, più bella la radio. 5 watt già, segna addio, 5 watt. 5 watt, watt. Ora, E vai, da 20 a 30, capito? Però la radio va meglio. Se invece le dai più watti, allora cambia la radio, vero Anto? E beh, ce la mangia, no, deve stare sempre quel regime lì, tranquillo, tranquillo, e lui va alla grande, va. Sì, ma quel segnale lì te lo dà un 100 watt, non un 200 watt, un wattissimo. Cosa? No, se non cambia il segnale già. No, non hai capito, con il 747, quanto aumentavo? Faceva da 9.20 a 9.30, no? Gappa. Ecco, adesso da quando con 20 watt faccio lo stesso da 9.20 a 9.30. Non so quanti watt stai usando qua, quando attacchi vai da 20 a 30. 200. A vedere, guarda vedere com'è, Claudio, com'è? Ma se fa vediamo tutti in pari, ti comprendiamo. Detto, guarda a vedere com'è. Ho fatto una modifica adesso. Tu vai da 9.10 a 9.20 a tu. E scappa. Ma cosa cavolo di Ducato? Ho toccato una cosa che non dovevo toccare. Praticamente tu attaccato sei, quanto già ne arriva liscio? Ola, ma non va giù 200 watt però. Ora, hai già detto tu attaccato, arrivi con lo stesso segnale di Gianni da liscio. Vabbè, forse perché sono un pochettino più un basso io di Gianni, Gianni è più aperto di me. È interessante farsi sentire. E l'importante è che sentiamo un po' il basso o alto, io vi voglio a tutti e due, quindi per me non è un problema. Antonio Giuseppe da Sosso, che arrivano a Santiago Nuova. A voi che va bene. Cosa? Aspetta, a voi che va bene. Comunque io c'ho quasi le stesse, abbiamo fatto delle prove stamattina, ho quasi le stesse prestazioni di coso, di Natalino. Ma con Natalino guardi si è appena attaccato al muro. Natalino sono a porto su di un paio di vetri, sono sul culo al grillo. Anche io sono a porto più in su, vado ancora più forte. Allora, tu sei colpo, guarda un attimino come segnale qua, 9.10 e 9.10, perché bisogna fare a bare segnali da liscio, poi se attacchi arrivi più forte, però liscio sei 9.10 come lui. Sì, capa, più o meno siamo, guarda, io abbiamo fatto delle prove stamattina, e arrivavo quanto è Natalino arrivato, a Latta Dolce però un po' di più. Bisogna vedere qua che arriva meglio, non lo so, Natalino con l'antenna che ha, guarda, è uguale alla tua a me, capito? È uguale alla tua perché tutto i radiali sono attaccati al muro, quindi non stanno radiando, sto radiando lo stivo centrale. Se con l'antenna viene tirata su è una bella posizione quella di Natalino. Se capa. Io sono un po' carino. Sì, se no era stato, avrei messo il palo più lungo, era stato da sopra, l'avrei stato ancora di più, avrei, sono sicuro che avrei migliorato, ma mi basta così. Insomma, mi basta così. Faccio andare così, è troppo debole il montaggio lì, è troppo debole l'antenna, è troppo debole, hai visto le raffiche di vento che stanno facendo, ancora è nuda. Ancora è nuda, ho avuto paura io ultimamente, però poi ho detto ma cosa devo avere paura, con quelle strappe che ci sono, più di che ci sono, la mappa manco ci muoveva, però non ricordavo ancora di avere le antenne su, invece non ve la vi più, capito? Lascia tutto così a già va bene. Che cazzo, no, ma anche qua la vedevo che si piegava un po' ma non rivadia nulla. La verità non gli ha fatto niente. Guarda, avanti già. Ma che ore si sono fatte? Se devo andare a regare un gas. Sì, sono 7.20, sì, sono qua. Cappagato. Adesso ho aumentato l'apparecchio, il power dell'apparecchio. Guarda quanto arrivo di segnale, Claudio. Aggiungi il mondo, le piccine, ma ecco qua, vai. Prima era 5 watt, adesso sono 9 watt, guarda si è aumentato qualcosa. Sì, a 22 si è andato, 9.22. Vabbè, dai, una fessina. Appena, già, non cambia niente, non cambia niente. Io il capo lo tengo sempre a 20 watt di importante, perché poi modulati ne ha quasi 50 e quindi va bene così, capito? Però non cambia, il bico di modulazione è quello, non cambia niente, voglio sfruttare le radio così al massimo, metterlo alla manetta, non va bene. Oh, dimmi Antonio Giuseppe, non mi metti un segnale. Ciao Antonio Giuseppe, buona carica quando la fai e buona continuazione in serata. Avanti Claudio. Ciao Antonio, un saluto a tutti a casa, ci aggiorniamo, vai Antonio. Ma salutone Antonio Giuseppe, ci sentiamo alle prossime, ciao. Sono in casa tua Giuseppe, criticando la ZG, ma dimmi tu, ho ordinato un commutatore d'antenna professionale, due vie funzionano, gli altri due vie non funzionano, mi manda in corto la radio, prima ci, E come facevo a me? Le lamelle, controllatele, quelle lamelle. Non sono aperto un commutatore buono, tipo Vaiva, capito, e ho comprato su internet, tra l'altro da un negozio, me l'ho ordinato Luca, e infatti l'ho messo il feedback negativo, perché non si può vendere una cosa del genere. Cioè, 40 euro di commutatore e ne funziona solo lui, gli altri due non funzionano. Questo dici di avere niente, fatene mandare uno nuovo. Guarda, ci ho buttato la scatola, ci ho buttato tutto. Ma già l'ha messo il fallback negativo, è stato Luca che ha detto perché l'ha messo il fallback negativo, perché il commutatore funziona a metà. Appa. E tira, compriamo un ZG e funzionava più bene. Dai, Antonio, da zì, che non si viene a nulla, che sta buona mai Giampaolo, se non scendo in fretta per rottose, anche mai bruciare un 140 brucia, ma non appennarli, che non servono a niente. Questo deve essere difettoso dalla fabbrica, può capitare, ma è un commutatore buono, capito? Non rompo le scatole, perché io l'ho messo il commutatore a parete, per commutarmi vintage, adesso non posso commutarmi vintage. Ogni volta devo staccare l'antenna e attaccare al rovarirotto, che rivaria un raio, rivaria. Ah, però Claudio, controlla che tocchi bene le lamelle. Con lo apri e guardi, ci sono delle lamelle, come tu come ti tocca, dovrebbe toccare. Se magari sono spostati appena appena le lamelle, non tocca. Mi serve un po' capito, se abbia il culo, tanto adesso l'ho detto guardare meno un altro, faccio vedere. 5 addirittura, perché mi serve per il vintage, hai capito? Ho fatto questo lavoro apposta, da una base all'altra, perché non so a cambiare, giro e me ne passo l'altra serie. Invece ora mi tocca nuovo che sacca l'antenna, con il frantumo. Vabbè. Io non so, questi commutatori, io ho sempre preferito adesso, ultimamente, cambiare, riavvitare il PL e basta. E cosa ci vuole? È una cazzata. E questi commutatori, io ne ho comprato uno della ZG da Fusaro e praticamente c'è cioè, l'uomo di zecca e mi mandava tutto in corto. Arrivava la lancetta della stazionaria in fondo scala, proprio oltre il fondo scala, cazzo, tra cosa è successo? Preso, provato, cambiato sempre pensi che siano le spezzoni, questo e quell'altro, niente da fare. Allora ho provato a metterlo in diretta l'aria andava bene, anche perché la mia c'ha anche lo spettro, quindi potevo controllare il Galaxy. In diretta andava bene, Claudio, e allora ho capito che era quello. Ho riprovato a riattaccare di nuovo la capo, ho detto basta, a giubilare l'ho smontato, nella vera erano tutti a posto, toccavo e tutto quanto, ma era difettoso lo stesso. Adesso ho sganciato la mula perché l'ho aperto, prendi quanto io. Mamma, ne avevo comprato uno buono della Proxel, ma era massiccio questo gozzo, cioè non l'ho più trovato, cavolo, era, guarda, non si è mai guastato quello, era ben massiccio, era, boh, ci ti qui a capo ti facciamo un gambo, non era anche sulla Mirino Vini che va. Va. Cioè era brutto di chi si, ma di decera, funzionava che è una meraviglia. Quello che c'è io vado al televisore, vado a strumenti enormi. Ma bello, bello proprio, bello, come commutatore. Altrimenti era bisante, cioè si vedeva proprio che non era fatto in economia. E non l'ho più visto io, forse quando avevo la roba e chi me l'ha dato. Era proprio massiccio, massiccio. Allora mi sembra Gardino, sicuramente lì. No, oh, no, mi sa che quando ha venduto la roba l'ha messo insieme. Non c'ha più nulla. No, non ha più niente, no. C'ha quel portatile tipo come quello che ho io, basta. Camagala. Vabbè. Qui ci sono cose che magari sono superiori a quelle di interessi che sono superiori e muori gli altri. Io la verità, la radio non l'ho mai mollata, l'ho sempre avuta, qualche baracchino ce l'avevo sempre. Sì, vabbè. Io ce l'ho sempre avuta io poi, e poi me la sono portato qua, finalmente, cazzo mi sono messo un'antenna un po' come si deve, e anda. E chi c'è che attaccavi alla finestra di casa, che fine ha fatto? C'era lui giù, no ma poi ero sempre con la Storm, ce l'ho qua. La Storm? Ce l'ho qua. Ma non è battinuta la Storm, no, ma lì. È un'antenna che si chiama un ruccio. Sì, ma io però già parlavo lo stesso. Ma non arrivi a tutte le parti, adesso se non arrivi, io non riesco a tu. È un'antenna limitata, dai, senza massa. Lo so. Non è come una boomerang grande, no? Quella si è pompata. Eppure se vedete il foro cosa si fa della boomerang, che non è un'antenna, che questa è quell'altro, eppure molta gente con la boomerang fa anche di ex. Ah, di andare a cagare. E quella che c'avevo io era una gannonata, un papa di Gosamara, un papa forte. Tu cosa c'avevi, la LEM? La originale, quella grande c'avevo. Perché cosa non esce un bar forte? Luca da sotto la Pisa. Esce bene, non arriva bene. No, pure originare, buon favore. Quella lì è quella che avevi tu. Allora? Quella se la metti sul tetto guai. Se sul tetto guai, cioè. Sul tetto buon paio di cosa amara. quella originale, proprio l'M, è la migliore che esista. Come antenna piccola, secondo me, sono una delle migliori. Quella che non serve è la mini grappa e la mini boomerang, che sono due antenne che non si viene a nulla. Paga bisico. Ma le regole manco le stazionarie, quando c'è una stazione non le servì. Ah, è un trudio, La Gran Pli, quella grande, quella sì, una signora antenna. La grande non la butta, quella della LEM sempre, con il radiale 275, che praticamente sono in risina, metà in stilo d'acciaio. La ripopa a posti, arriva Palghero 95 con quella da Sacropone, della casa di mamma. Appa, dai, ci sentiamo dopo che sono arrivate le pizze. Ehi, Arturo, dai, ci sentiamo. Stavi bene, tante cosce belle. Già, ci sentiamo dopo che mi hanno portato la pizza. Ehi, buon appetito, tanto. Grazie, già. Chi è? Avanti, chi è? Avanti! Anto, come sta uscendo? Ah, bene, bene, qua. Bene. Allora, questo è il baracchino. Sto controllando quel contattore. Un po'. E non è super spinta, però già va bene. Super spinta cosa? Di segnale, ma la radio già va bene. Sì. No, già va bene la radio. C'è il K. No, vabbè, anche la radio non sarà un pivot, però già va bene lo stesso. Sì, anzi, lo già vuoi di più ancora. Ancora più spinta la butto. Più forte di così non è che posso andare. Va benissimo. Poi che lo chiudo adesso sto contattore a vedere, va? Se va bene. Ma come vira a capo? Perché non è la melle, capito? Non è come dice Gianni alla melle. È il condensatore dentro. Adesso l'ho spruzzato un po' di spray, ho stretto bene le viti, e vediamo un po' se va bene. Prova. E adesso lo provo, aspetta, lo chiudo. Capa. Perché? Un po' di spray per le stazionarie rimetti. Aspetta che proviamo le commutazioni che passo con l'altra radio, eh? Ok. Appa. Allora, ecco il capo. Sta fischiando? Via. Secondo me lo fa andare in tinti qualcosa. Ho messo apposta il commutatore, capito tu? Lo so, vero, ma non è che lo manda in tilt, no? Ha ragione Gio, Guido, ragione Gio, aspetteremo che lo chiudo, se non va bene ti rompo il gomito. Scappa. Va. Così è diretta invece. Va benissimo. E ho detto io che la cosa, con il fattore. Scappa. Ah, già. Va bene, cavolo. Adesso. Che c'è un commutatore, c'è tutto quanto strano, cosa c'è poi soldi, cazzo? Non c'è, non è un commutatore della ZG. Capito? Non lo so, qua, non so che dirti. Tra i cinto e mezzo, gatto e gatto. Era nuovo o a seconda mano? Nuova roba? Nuovo a seconda mano, nuovo nuovo, Nuovo, nuovo. È un CCC, questo, la Rai, la cazzo. Nuovo, la mazza viene a fare molto assaggio. Figlio di ragazza. E mi serve, capito? Mi serve, cazzo, mi serve. Oh, veramente incredibile. Mi serve, l'ho comprato per quello, per commutare vintage, per fare un bel lavoro. Un lavoro. Guarda, ti sta già un po' di €40, va, a torra. €40 cos'è il suo commutatore? Ehi, come un po' di meno questo? €40 costa. Ma quasi che sia anche qualche contatto che è andato a quel paese. A quel paese deve andare chi l'ha venduto, ma fai nelle varie. E magari non era neanche colpa sua, lui li vende, però non è colpa. Aspettiamo più qualcosa. Quanti posti è? A 4 al tutto. Sto cercandolo su internet, se lo trovo. Sa economico, sarà. Non c'è economico, e lo so. Sto guardando, sto. Come hai fatto? Mandami la foto. Ho trovato quello che c'era a casa, che era Bedu massiccio. Aspetta, fammelo chiudere questo, no? Ok. Sì, guarda mia Bernacchia. Sì. Non va bene, no. Il 2 invece va bene? Così va bene. Il 2 va bene. Vediamo se va bene il 3. Possiamo usare il 2 e il 3. Aspetta. Scusi, mi raccapo. Che è avanti? Va a vedere. Va a morire, va a morire! Senti volle! Che Luca, ebbè! Aspetta, va a morire, ma la ghicca! Che me! Caffè! Ebbè, aspetta, ega! Ma la ghicca! Luca, se ne andà per Nacchi, prova! Suda sul microfono. Ci siamo dopo la casa, dai, ciao. Ciao Lu. Ma tu vedi che stavi fischiando? Negativo, no, non sono un escando io. A dopo, ciao. Va. Smetto, così bene va. Così va bene. Prova a segnare a vedere se è giusto. 9-3, prova. Ottimo, aspetta che cambio radio. Vediamo un po'. Vai. Anche questa va bene? Appa che va bene. Ottimo per la truppa allora. Riesci a vedere stazionarie? Vero. Aspetta che... Aspetta un attimo. Vediamo. Va a vedere. Kappa, è Kappa Roma. va bene, Antonio. Roba che va bene. Ma cosa hai fatto il bocciughissi? Ma allora non c'è qualche condensatorino? Mi hai detto che ci sono i condensatori lì, no? Allora, ma quelli via a capo, grazie. Potrebbe capitare. Ah, tu devi capitare, mamma. Magari manco lo sapevami quando l'ha venduto, cioè. Spero che l'abbia fatto in buona fede. No, aspetta, cambio radio, dove ce l'ho fatto. Va. Ma se trovi il segnale più basso l'ho abbassato io di potenza. Lascia andare tutto così. Vai così, lascia stare così. Che ne so, drappano. Oh, rimano ti mi sei facendo l'uretto, gatto, ti devo fare da culo a terra. Perché ha ceduto il coso del piede, allora ieri mi sono combuccio con lo drabbano, ho fatto i buchi, eccetera eccetera, e l'ho messo a posto. La staffa che c'era si è rotta. Capa, se ti arrivo più basso è perché ho staccato mi. Dopo c'è la partita, vediamo un po'. Capa, ignora ma ha sbagliato il microfono. Anche io intanto sbaglio. No, c'è problema, già va bene. Bene, va di radio. È una cannonata, pone di beh. Il trappano. L'avvitatore. Ho preso la rostrinca, la grande, ieri mi ha aiutato molto. L'avvitatore. Già va bella, cioè mi sto mettendo le cuffie così, regoliamo anche la radio. Ma ho guardato tutto, intanto non so che niente con il commutatore antenna. 30 euro lampati con l'uomo, se lo va piano il guagino, se lo va piano. Che invece 40 euro mi va bene lì. Pazienza, mi compro un altro. Ok, aspetta, lo metto a posto qua. Vai, vai, che devo aprire una cosa col cacciavite, aspetta. Ah, finalmente mi sono seduto, tanto. Sì, stavo mandando delle foto a una persona che le servivano i colori. I colori? Minchia. Aspetta un attimo che chiudo questo connettore. Dammi un attimo qua. Devo aprire il microfono un attimino. Ehi, ehi, fai, sono qua io. Non c'è problema. Adesso lo chiudo perché gli ho fatto la fotografia, l'ha già messo. Adesso sto chiudendo e tutto a posto. Eia, va bene, va bene. Anche qua c'è una che va tutto a posto. Tutto ok, Anto, no? Tutto ok, tutto ok. Va bene, adesso ha vinto. No, no, no, va alla grande, cavolo. Deve essere che lì, oh, che condensatore, magari c'è quei condensatori, magari qualcuno mezzo battuto, non lo so, qualcosa del genere. Quindi sicuramente qualcosa del genere, non lo so, vabbè, c'è bianco attaccato, ma c'è anche una diretta. Un attimino qua, se no me ne farà tutto in terra. 2 secondi, Vai, vai, tanto proprio andiamo a toccare. Mi sono levato adesso a casa, aspetta un attimo. Perché mi attacco sempre il PL? Aspetta 2 secondi. Ok, da posta, 1-1. Penso che sia abbastanza... non è professionale questo rosmetro. Vediamo, già l'hai visto anche tu, già 1-1 mi sta segnando. Commutatore è andato in tilt, adesso non posso più commutare dall'altra parte, devo ordinare un altro pezzo. Ma che cosa? Il commutatore? Allora, in tilt, un attimo con bruci, bruscetti, ce l'attacco. Allora, l'ho attaccato, ma sono per la diretta. Un attimino, che mi sta funzionando bene la cassa, aspetta. Parla! Ehi, guarda, vabbè, 1, 2, 3, 4. Ok, a posto. Io c'è una lente di tagascia. Ho messo anche lo spinotto nuovo. E vabbè, dai. Mi attacca un attimino che mi spoglio, va. E mi impigiamo. E anch'io adesso ho fatto troppo per mangiare. Spero che andava tutto bene qua. Sì, perfetto. Vabbè, qua lo smette mi da 9:10 mi stai arrivando, lo smette, non lo tocco, non lo so in chi va a smontare. Lo segnale è sempre lo stesso comunque. No, vabbè, la radio l'ho regolata con Antonio. Mi dispiace che adesso ogni volta che devo passare a parlare con i baracchini devo attaccare l'antenna, attaccare il barilotto e passare dall'altra parte. Ma dimmi tu che 35 euro di commutatore e non serve a nulla, va a vedere la ZG e gli divoni già figlio. Non è così, va. Buonasera. Ciao Giaffa. Che commutatore è per curiosità? È quello il C... aspetta, te lo dico. Il CX5, quello della Raiva. Funziona, l'ho preso a 4 vie. Due funziona e 2 vie no. Controlla che non ci abbia la capsula antifulmine, che magari è partita quella. Comunque se vuoi commutatori con la C, gli unici sono quelli che non ti spariscono mai, sono i Delta, Alfa Delta. Non è la mele, l'ho aperto, è fatto anche bene dentro, ora non capisco. comprato da Fornetto 42, ma sono a dir poco la 13. Infatti se li vuoi te li scarico, giusto per buttarceli, magari, perché non è roba che tengo in stazione, era roba nel solito deposito, di così, anteguerra. Poi c'è anche altra roba da buttare, ma è tutta da vedere prima, perché non c'ho tempo. Quindi se la vuoi te li scarico, se no siamo un po' tutto nel cassonetto. Non ci buttare niente, tanto mi serve per buttare il vintage, è già fra, quindi basta che non sia della testa G, anche se sono vecchi, se sono, non mi interessa, basta che non sia della testa G, capito? Quante vie? A due? A tre? A due vie? A due, sono quelli vecchi, ci sono da tanti anni, vecchi del cucco. Non valgono niente, è troppo già il 100. Non è roba per me. Io ne utilizzo solo un modello, che sono i cosi, questi Alfa Delta, che li ho collaudati da anni, c'hanno anche la capsula antistatica, quindi che esplode in caso di fulmini. Ne ho due, uno l'ho preso da poco, il mese scorso, tra l'altro. Ne ho due da sono quattro vie, quindi per quattro antenne, e l'altro che è ancora più vecchio, che è ancora di lì, è quello a due commutazioni, a due antenne. Fidati che vanno bene anche nella SHS. Non è buttare, non è buttare, domani ti chiamo se sei attivo, me li vai, tutti e due me li vai, non buttare già fa, che mi servono, in attesa magari di ordinare qualche uno più buono, ma intanto mi serve per montare i baracchini, capito? Quindi non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, domani ti chiamo e ci troviamo, intanto si può uscire domani. Così lo metto in coppia e lo faccio diventare a quattro, capito? Sì, a quattro è un po' difficile, che lo fa diventare, al massimo c'è a tre. Domani non faccio nel servizio, domani giovedì mattina e sera. Mettiteli già da parte, portateli e ci vediamo in ufficio due minuti, scendi e me li vai. No, non sono in ufficio, sono fuori, capito? Sono fuori, non posso allontanarmi, è lì il problema. In ufficio potevo uscire fuori, qua invece non funziona, capito? Sì, ma in che zona sei? A che ora esci? Alle 7, alle 8, a che ora esci? Io prendo servizio alle 7, finisco all'1 e riprendo all'1:10. E quindi quei 10 minuti non ce li hai neanche? Dovrei pure mangiare, anche se voglio di no, ma dovrei anche mangiare. Però già dai, appena ho 5 minuti, ti vedo un po', ma c'è anche altra roba, ma la devo controllare qua. Capito? Perché tanto l'ho buttata qua per terra, era pronta un cassonetto, ma ne vedo uno, l'altro non so dove ce l'ho buttato, aspetta. Io vai, vabbè, dunque non buttare più, non buttare. Oh raga, non è un po' cenare, dai, io momentaneamente vi saluto, già rientro qua, tanto c'è la partita. Rientro qua appena ho finito di cenare. Ok, Anto ci sei? Ma domani non è zona rossa, tra l'altro? No, domani riaprono anche il bar, domani riapre tutto. Ora siamo liberi finalmente, zona rossa era oggi, ieri e oggi. Io sapevo che era fino a domenica. Sabato rosso e domenica rosso, e anche per evitare i ponti. No, c'erano anche i ponti. Finito. Prolungare per il bar fino al 15, però ancora non sa niente. Domani siamo con un arancione, come possiamo uscire? Devo uscire per forza, sono una settimana che chiuso il portone. dici, per carità del cielo. Vabbè, sì, ho trovato anche l'altro. Non li seguini, però se li vuoi al limite. Guarda, di buono c'ha la mano. Ah, è già comuta, però buttare due bacchini, già va bene, già fra io. Già va bene, non ti preoccupare. Tu dimmi quando ci vediamo, me ne vai. Capito? Ok, ti chiamo domani. Domani se mi ne ammetto, essere soprattutto non vedo con lo scatto. Al limite ci incontriamo al solito punto. Ok. Sì, o lì di fronte a CC, oppure che oggi qua sotto di là al punto, non c'è problema, Diola, chiamami tu. L'importante è che li metti in macchina, vai, capite? Metti in macchina, mi servono. Cioè devo cambiare, devo attaccare il BL ogni volta, attaccare il barilotto per passare nell'altra scrivania. Guarda, ho organizzato così bene, stavo parlando stasera, a un certo punto ho iniziato a fare un casino, guardare i punti di contatto, magari c'è qualche buchetto che impedisce di fare questa aumenta l'impedenza, quella da doversi misurare, capito? Lo metti in misura e vedi un po' che differenza c'è anche come SVR tra diretto e fare un commutatore. Oppure può essere anche il solito cavetto che guarda quello che sto trovando io, non te lo puoi neanche immaginare i cavetti. Cavetti anche fatti nuovi, vai a controllare e fanno impazzire tutto, guarda. È una cosa che non si crede, stanno facendo le cose senza calza, senza rame. Boh. Oh, Claudio! Oh, dimmi. Allora, io ho questa modulazione qua, giusto? Io tra un po' voglio provare a cambiare il microfono per vedere com'è, se è diversa o se sembra la stessa. Questa è bellissima, questa è, va bene. Sì, un attimo. Mettiteli giù in vista, domani te li porti appresso e metti nel cofano, poi appena hai due minuti mi chiami, io ti raggiungo e me li prendo. Hola. Vado a vedere, come va con questo? Che sono uguali di microfoni, però secondo me cambia la tecnologia dentro. Com'è? Questa è citofonica, che non è proprio bruttissima, l'altra è bellissima, questa è bruttissima. Confermi, Gianfranco. Non lo so, ero un po' distratto, che sto leggendo il meteo. Vieni avanti, Kappa, dai. Allora, questa qua è con questo tipo di micro, è preciso, mi solo che cambia proprio la capsula, una è dinamica e l'altra è no. Ora vedere com'è. Diciamo rispetto a quella che c'era prima, questa fa assolutamente l'ascamo. Come ha detto Claudio, anzi forse quella del citofono va anche meglio. Allora, passiamo all'altro. Tanto metto nel tuo cassetto e lascialo stare. Usa l'altro microfono che è una canna nata, bella, ordinata, pulita, bella, forte. Sì, comunque là, negativo per quella zona. Se ci possiamo incontrare, sicuramente è sempre sotto il ponte, lì sotto quel viadotto. Oltre non mi posso allontanare. Eccomi qua. Questa è un'altra cosa, vero? Poi, questo è da giorno a notte. Sì, Gianfra. Chiamami 10 minuti prima, al tempo appunto di arrivare, no? Come facciamo sempre. Chiamami domani mattina, se ti puoi allontanare 10 minuti là, sotto il ponte, vengo e mi riprendo, capito? Così lo collego, se no provate un altro scatolo per cambiare ai baracchini, capito? E anche qua, perché devo commutare 430, 140, l'ho presa qua apposta. E commuto due radio su questa base e poi le due radio su quella là. Poi se devo invertire lo stacco dal baracchino al piego lo attacco all'altra, ma quello principale sono di noi Midland che uso spesso, capito? Quindi mi andava, il lavoro che ho fatto mi andava benissimo, e invece è andato tutto a schifo, vabbè. Sì, perché anche lì c'è la fregatura. Io l'ultimo che ho preso l'ho fatto il mese scorso praticamente, a 4 vie credo mi sia venuto 120 euro, sempre solo esclusivamente questi dell'Alfa Delta, che sono i migliori in assoluto, perché ho provato tanti anch'io e ce l'ho ampati. Se sta rivendomi quello che c'ho io, a 5 vie della Meritron, è tutto elettronico, capito? Basta che salgo su, stacco l'unità, ce l'ho qua sotto, quindi devo scollegare i fili, portare giù la cancellarlo al muro, ricollegare i fili e con quello non si scherza. Quello elettronico, capito? Con la Meritron, a 5, ma lo voglio lasciare su. Lo voglio lasciare su perché non si sa mai che decida un domani di mettere qualche altra antenna e devo rifare tutto da capo, capito? Perché da giù arriva su, arriva al capo di alimentazione alla centralina, quindi non mi conviene staccare niente. Ho capito. Sì, quello è elettronico e quindi c'è anche, dovrebbe avere anche poche perdite. Anche se ne sono visti anche di quelli che avevano dei difetti su di lì, infatti li hanno sostituiti, molti li sostituivano con quelli ex militari a gas, no? Che suonavano valvole sotto vuoto, e allora andavano molto bene, però solo che sono quelli che ho fatto 40-50 euro l'uno, fatti rubare. Lo so, però capito, questo è buono, però ti ripeto, la soltare non va perché se un domani voglio, ci sono arrivati, se magari un domani voglio collegare qualche altra antenna, devo fare tutto l'impianto, poi c'è già tutto pronto, perché c'è un'unica calata, io capito, c'è un'unica calata, vabbè, dai, io vado a mangiare, comunque tu chiamami domani e poi ci mettiamo d'accordo, Gianfra. Un momento vi saluto, io tra un po' sono veramente qua in stanza perché mi devo guardare la partita, ok? Ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ok, va bene, per me a domani perché adesso devo controllare altre cose. A domani a tutti, ciao Antonio, ciao Claudio. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, se ci siamo, ci sentiamo, ciao. Ok, attenuo un po', ha manco fatto il casino e già accetta la radio, ok? Ciao. Oh, tu! Ehi, dimmi! Beh, aspetta un attimino, dai, devo cercare una cosa e poi già riprendo. Ciao, dai. Arrivata a 160 euro, la seconda è arrivata così, le denunciamo perché noi quella corrente non l'abbiamo consumata, non so come andrà a tenere di stufa come te si dice, manco elettrico per riscaldarmi, anche che non ce la faresti mai tu a consumare tutta quell'energia. E cosa siamo, una pizzeria? Ti ho battuto Antonio, allora. Cosa, Cla? No, sono Fina. Questo ti ho battuto allora. Ciao Luca. A me è arrivata la prima 2000 euro, la seconda 1008, la terza 5900 euro. Che cazzo, cosa che sei consumato? Vabbè, già arriva qua alta, Qua è arrivata anche 350, ma 5000 euro di luce, cosa hai consumato? Cosa vai? Quasi 6000 euro, ma secondo te è pagatelo, ma vai. Ma come mai ti questa bolletta così alta? Ma io adesso, sicuramente qualche sbaglio dall'Ener, ma non l'ho pagata, ha detto di staccarmela e vaffanculo. Invece poi mi sono salito all'Ener, siccome era mercato libero, prima era E.ON, quindi era mercato libero, loro potevano fare i prezzi che volevano loro, capito? Ma la corrente mica l'avevo consumata io. E sono passato in energia. C'è un bel fuga anche mia madre. L'altro giorno l'ha chiamata questa tipa, un tipo, non lo so, che c'era da pagare queste 250 euro. E gli ha detto di mandargli la bolletta. Non è che tu mi dai un indirizzo così o ti verso il soldi, o sei macuno, o magari sì. Mandami la bolletta e io te la pago. Ora a me non gli risulta questa bolletta da pagare. Sì, cosa dobbiamo fare noi? Vai all'Enel e ti lamenti, dici che non hai né un albergo né una casa di riposo, stai vivendo in una casa per dire di 60 metri quadri, non ci sei quasi mai a casa, come fai a dimostrare a vedere se realmente hai consumato questa elettricità, capito? Ma loro lo fanno un po' così per cercare di recuperare qualche quattrino, capito? Quindi non. No. Non in banca, tutti i dini, Scappa. Ma se mi staccano la ruzzi, no, che cosa ha fatto? Cioè, cavolo, come bisogna fare? C'è un ordine di denunziamo, Non risolvi niente, Anto, perché tanto non fanno niente anche se li denunci. Che compagnia sei? Nell'energia è quello, cosa cavolo è, non me lo ricordo adesso, una cosa del genere. Se sei nell'energia tu devi dimostrare dal giorno che sei lì abitando che le tue bollette per dire, adesso non so quanto ci sei tu in quell'appartamento lì, ma è che ci sei anche 4 mesi, in 4 mesi ti hai consumato per dire, 2 mesi ti è arrivata per dire 120, gli altri 2 mesi 140, c'è una cosa di insomma di piccola un po' di piccolo livello, diciamo, ma non così esagerato. Molto sicuramente ti hanno accollato o le spese del vecchio proprietario o chi ce l'ha dopo di te e magari hanno fatto un conguaglio. Ero il cazzo di. Ero il banco cazzo la bolletta del vecchio proprietario. Ma stai scherzando, sanno cosa. E voglio la bolletta mia, voglio una bolletta del vecchio proprietario, si arrangia. Sì, ho capito, ma tu da quando è che ci sei lì? Hai già pagato 2 mesi di luce, per dire, da quando sei in quella casa? Sì, la prima già pagato. Cos'è? Uno, No, sono 2 mesi, se. 2 mesi. Sono 2 mesi di luce, la prima bolletta è arrivata, 160 euro. Chi sta a casa a croce di capo? Infatti tu dici, come mai io in 2 mesi ho consumato 160 euro e in questi altri